peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni di Salpinaz. Oggi il protagonista della trasmissione è l'orchestra, la forma orchestrale che fin dagli esordi della storia del jazz è stato il punto di riferimento per la formazione e per la crescita di tutti i musicisti che hanno visto anche questo contesto come l'occasione per incontrarsi, per dialogare tra di loro anche musicalmente, non soltanto di confronto stilistico, e poi di come dire, formare anche una propria personalità e una propria qualità orchestrale e musicale. Poi le forme orchestrali naturalmente sono sempre state diverse, hanno accompagnato praticamente tutta la vita della storia del jazz. In questo caso il confronto è l'occasione un po', diciamo, delle tre esperienze che ascolteremo oggi. Sono contesti che vedono ospiti di spessore, di rilevanza solistica, che si integrano e fanno parte appunto di formazioni molto diverse dal loro contesto abituale. E questo sia per sottolineare l'occasionalità anche di certi incontri, sia anche proprio per vederne l'umile partecipazione a queste forme. La prima orchestra che ascoltiamo, sono tre orchestre che hanno intenzioni stilistiche diverse tra di loro, personalità piuttosto diverse, anche che divergono, e che fanno parte comunque del jazz da dopo gli anni 70. L'orchestra più consolidata e anche più conosciuta sicuramente è quella di Gil Evans. Gil Evans, che ha legato la propria attività, la propria carriera, diciamo, dalla fine degli anni 40 come arrangiatore di orchestre. Penso per esempio subito alla collaborazione con Miles Davis, che fin da Birth of the Cool poi ha accompagnato vari momenti della propria carriera con questa collaborazione. Gil Evans quindi ha attraversato molti stili diversi, sempre distinguendosi con una grande qualità, una grande sensibilità di scrittura orchestrale e di arrangiamento particolarmente evocativo. Qui siamo in un concerto dal vivo nell'83, in una tournée in Inghilterra. Gil Evans in quegli anni, nonostante fosse riconosciuto come il grande maestro, il grande della storia del jazz, aveva difficoltà a poter mantenere un'orchestra regolare, e quindi era spesso costretto anche a utilizzare musicisti che trovava nei vari paesi e che potevano poi integrarsi nell'orchestra. Diversi musicisti inglesi, penso per esempio a Malcolm Griffiths o a diversi altri, e soprattutto a John Sarman, che in questo caso naturalmente viene accolto come anche protagonista, essendo un po' la star di casa. Ma ricordo che John Sarman nell'orchestra di Evans, ricordo un concerto nel quale praticamente non ha preso neanche una solo, era talmente naturale integrarsi nel discorso orchestrale che anche solisti di grande vaglia, di grande importanza, non ritenevano necessario esprimere la propria personalità individuale, ma solo proprio in un contesto collettivo. In questo caso è il brano che ascoltiamo, un bel brano, una bella composizione dello stesso Gil Evans, lo vede come il protagonista, il solista con la sax baritono. Ascoltiamo questa bella versione di Parabola, una delle composizioni conosciute comunque di Gil Evans. Featuring John Sermon. Next is an ensemble piece by Gil Evans called Parabola. Thank you. Questo era una registrazione uscita in bootleg dell'orchestra di Gil Evans con una presenza importante di John Sarman, tra l'altro un bellissimo assolo con il sax baritono, uno strumento col quale peraltro è sempre stato un grande maestro. Sicuramente dicevo che l'orchestra di Gil Evans è quella che ha la maggiore notorietà, ma esiste tutto un mondo di esperienze orchestrali che sono ben poco conosciute nell'ambito sia della critica che della conoscenza del pubblico delle esperienze musicali nel jazz. Quella per esempio, come questa che ascolteremo, di Walter Thompson, musicista newyorkese che però lavora trasversalmente un po' in tutti gli Stati Uniti e non solo, anche in Europa. È un musicista che compone anche in questo caso trasversalmente, perché si cimenta sia con musiche funzionali per film, per danza e poi anche per musica classica. È diciamo che si muove in un territorio di confine con quello che può definirsi la musica contemporanea. È decisamente poco conosciuto, ma molto apprezzato da diversi entourage musicali, ed è sicuramente un didatta. L'esperienza didattica comune a molti dei musicisti che hanno guidato, che hanno avuto l'interesse prioritario per la formazione orchestrale. E questa è sicuramente una di queste esperienze. Anche i suoi dischi sono difficilmente reperibili, è sempre raro riuscire a incontrarne. Ha inciso qualche disco per l'etichetta di Vinnie Golia, tra l'altro altro musicista col quale condivide un territorio analogo, diciamo, perlomeno quello orchestrale, e la Nine Winds, come il caso appunto di questo disco titolato The Colonel, che è diventato un po' mitico. È stato registrato nel 95, poi pubblicato un paio d'anni dopo, ma che è diventato mitico perché raccoglie una formazione orchestrale tutta fatta più o meno da ospiti, che comunque tutti numeri uno, diciamo, sono moltissimi personaggi di grande importanza, solo per citarne alcuni: David Tronzo alla chitarra, o Jim Pugliese alle percussioni, oppure alle anze David Castiglione, ma anche Michael Black, Philip Johnston, Thomas Chapin, oltre allo stesso Walter Thompson. E Quindi musicisti peraltro che poco hanno avuto a che fare l'uno con l'altro, come Michael Blake e Thomas Chapin, che in quegli anni avevano un'attività piuttosto brillante, anche Philip Johnston, un talento emergente in quegli anni, oppure alle trombe Dave Douglas, Frank London, Herb Robertson, Ron Orton, Steve Bernstein. Quindi sono cinque personaggi di primissimo piano che vedono l'orchestra, l'orchestra appunto di Walter Thompson, poi anche Steve Swell al trombone, insomma questo per citare solo i più famosi, ma è veramente una pletora di numeri uno che impressiona e che lascia naturalmente una testimonianza di rilievo. Però la cosa interessante è anche la forma di scrittura, di intenzione progettuale di Thompson, che è piuttosto particolare e che vede alcune particolarità quantomeno. Ascolteremo di seguito, anche perché sono collegati, il brano che dà anche il titolo all'album, The Colonel, insieme poi a quello successivo, Scones. Gli assoli che ascoltiamo sono il primo al tenore di Michael Blake, piuttosto curioso come assolo, perché non assomiglia al suo solito linguaggio, quindi è piuttosto particolare, un linguaggio più quasi braxtoniano, e nel secondo brano, insomma nella parte diciamo conclusiva, dura quasi un quarto d'ora questa sequenza, un bellissimo assolo di Thomas Chapin. Ascoltiamo questa interessante lettura, che poi con citazioni varie, citazioni da banda, citazioni prese da forme orchestrali diverse, quindi una sorta di carnevale di musiche che si intrecciano e che poi costituiscono un unicum. Thank you. Thank you. Questo assolo di Thomas Chapin che appunto conclude questo brano, questa sorta di suite che prevede sia The Colonel che Scones. Era l'orchestra di Walter Thompson, il disco chiamato è intitolato The Colonel. L'orchestra di Thomas di Walter Thompson ha una storia che parte praticamente negli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi ha una storia piuttosto ormai consolidata e l'attività è un'attività prevalentemente didattica e di scrittura di composizioni che rasentano, diciamo, il territorio tra la musica contemporanea, jazz e altre forme musicali. E lo stesso tipo di l'impostazione è quella di un altro musicista poco conosciuto come peraltro Walter Thompson. Si tratta di Darrell Katz. Darrell Katz è anche lui più o meno una vita analoga, un musicista che si forma nell'ambito bostoniano e che ha la sua, anche lui ha una sua orchestra che inizia praticamente nella prima metà degli anni 80 e continua tuttora. Ha dato diverse prove di sé, ma non poi tante, tutto sommato sono poche le incisioni che ha lasciato questo musicista, con spesso ospiti decisamente interessanti o importanti. Il disco d'esordio di questa formazione orchestrale risale al 93, quindi ormai a diversi anni fa, e ha veramente una formazione spaventosa, nel senso che sono moltissimi musicisti, dato un'orchestra piuttosto vasta, e sono anche in questo caso praticamente si raccolgono insieme personaggi che provengono da luoghi diversi, diciamo, da logiche e da percorsi diversi che si intrecciano appunto in questa orchestra. Sono musicisti, peraltro appunto Darrell Katz ha frequentazioni sia con l'ambito chicagoano, penso a Mal Abrams o a Harry Treadgill, quindi anche i confronti sono con le formazioni orchestrali di Treadgill, poi anche con la Eifer Orchestra, quindi un ambiente che divide l'attività didattica con quella compositiva e di costruzione, diciamo, dei vari brani. In questa formazione fanno parte, ne cito solo alcuni più famosi perché sono veramente troppi, alle trombe, per esempio, alla tromba dei Ballow, poi Chris Cheek al sax tenore, che peraltro firmerà anche il primo degli assoli che ascolteremo, poi anche John Carlson sempre alla tromba, Andrew D'Angelo al sax contralto, che sarà anche protagonista dell'assolo che ascolteremo, ma poi Julius Enfield anche al contralto, il primo assolo che sentiremo sarà di Enfield, Curtis Hasselbright al trombone, trombonista che attualmente è senz'altro uno dei più interessanti musicisti, compositori, David Harris anche sempre al trombone, poi appunto anche al sintetizzatore Darrell Katz, Charlie Colas al baritono, che è appunto uno dei protagonisti della Eifer Orchestra, John Medeschi al pianoforte, Jim O'Dell alla tuba, un musicista che calca le scene newyorkesi con un ruolo interessante, diciamo, dando un aspetto timbrico piuttosto interessante alle formazioni alle quali partecipa, Josh Roseman al trombone, poi scorrendo Ken Shepherds alla tromba, anche questo proveniente dall'esperienza della Aether, George Schuller alle percussioni, quindi anche la presenza di George Schuller è frequente poi in queste situazioni orchestrali composte e che danno degli aspetti progettuali rilevanti. Ecco, mi fermo qui perché sono tutto sommato troppi quelli da citare. Ascolteremo due brani, sono otto le composizioni presenti in questo disco intitolato Dreamland. Il primo che ha firmato Darrell Katz con la sua orchestra, e ascolteremo il primo e l'ultimo. Il primo è Tonk, è una composizione riarrangiata di Duke Ellington e Strayhorn, e l'ultimo è intitolato Monk, quindi evidentemente dedicato a questo musicista. Ascoltiamo. Thank you. Questa era l'orchestra di Darrell Katz, con la sua proposta di formazione orchestrale, una scrittura orchestrale abbastanza tradizionale, che però si muove nella storia dell'orchestra con una certa agilità, con notevole sapienza, utilizzando musicisti di primissimo livello come ad esempio Giulio Senfilo, Andrew D'Angelo o Dave Ballo e altri. Questo disco era anche il disco col quale ha iniziato la sua attività discografica, pur modesta, e un disco intitolato Dreamland, inciso nel 1993. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi, e vi ricordo che potete ascoltare e avere anche le indicazioni discografiche delle cose che abbiamo ascoltato. Le potete ascoltare nel nostro sito radiocittafugico.it nella sezione musica. Questo è tutto, salve a tutti e alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.